Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, uno degli eventi più attesi da qui a metà settembre, fra poche settimane, è la visita di Papa Francesco in America. Dunque comincio a parlarvene oggi perché ce ne occuperemo ovviamente nel contesto di cronaca, ma vorrei fare un percorso di avvicinamento perché questa visita è molto molto importante, molto importante anche per il messaggio del Papa. Il Papa secondo me ha dato dei messaggi nel suo viaggio in Sud America che non sono piaciuti molto agli americani, tanto è vero che c'è stata una caduta degli indici di gradimento nei confronti di Papa Francesco. Pensate che l'anno scorso circa il 76% degli americani aveva un amore indiscusso nei confronti del Papa, lo ammiravano senza alcuna riserva. Ebbene, oggi quella percentuale è scesa al 56%, dunque per Papa Francesco c'è la possibilità veramente di risalire un pochino la china. In questo contesto mi piace confermare che, a Dio piacendo, nel settembre del 2015 mi recherò in Filadelfia. That's Pope Francis announcing in Rome today that he's officially visiting the US in September of next year. Ecco, la visita è importante perché, beh, intanto i cristiani in America sono il 70,6% della popolazione, ma la Chiesa cattolica è la religione predominante negli Stati Uniti. Non credo che questo lo sapessero in molti, si pensava che negli Stati Uniti ci fosse una predominanza della religione protestante. Invece il 25,9% della popolazione totale è cattolico, 68 milioni di persone. Ci sono 19.000 parrocchie, 196 arcidiocesi per numero di chiese sul territorio. La Chiesa cattolica è al terzo posto dopo battisti e metodisti, ma come vi dicevo per numero di fedeli invece è al primissimo posto. Aggiungo che le parrocchie sono medialmente molto più grandi delle chiese delle altre confessioni religiose e i cattolici sono circa 2,5 volte più dei battisti, 5 volte più dei metodisti. Dunque la missione pastorale di Papa Francesco è importante perché ci sarà un discorso al congresso riunito in seduta plenaria, ci sarà una tappa a Filadelfia, un grande bagno di folla a Filadelfia e poi una visita a New York dove la tappa più importante sarà quella delle Nazioni Unite. Dunque forse finora il viaggio estero più importante di Francesco, uno dei papi sicuramente più amati a livello popolare. Ecco, però vorrei affrontare proprio uno dei punti che secondo me saranno più interessanti, capire cioè come Papa Francesco si posizionerà quando pronuncerà il suo discorso in Parlamento. Perché? Perché Francesco è un grande Papa, lo sappiamo, amato, progressista, aperto, comprensivo, caritatevole, ammirevole, come vi dicevo molto amato in America. E su un punto però secondo me resta indietro: il suo messaggio contro il capitalismo non è cambiato rispetto ai messaggi che abbiamo ascoltato nei decenni passati, addirittura dei suoi predecessori. E dunque come calibrerà Francesco il suo messaggio all'America e al Congresso? Andrà a bacchettare gli americani sul capitalismo? Ma non lo so, non so se questa sarà una buona idea, perché i quasi 70 milioni di cattolici americani di certo grazie al capitalismo sono oggi forse il gregge più potente della Chiesa cattolica. E dunque mi chiedo cosa farà Francesco. Farà come ha fatto in Bolivia quando ha equiparato il capitalismo al diavolo. Bergoglio ha detto queste testuali parole che secondo me non sarebbero molto apprezzate negli Stati Uniti. Cito: quando diventa un idolo e guida le decisioni, il capitalismo rovina la società, condanna e schiavizza uomini e donne, distrugge la fraternità umana. Insomma, secondo me, ma qui parlo per conto mio, secondo me francamente un po' eccessivo. Però un messaggio che è molto piaciuto al presidente boliviano Evo Morales, era felice di questo messaggio, ha regalato al Papa, pensate, un crocifisso a falce e martello. E chissà che regalo avrà dal presidente Obama e dal Parlamento. Di certo posso dire, e io spero che poi chi prepara i discorsi del Papa in Vaticano cominci a riflettere un pochino su queste cose, che gli americani, i cattolici americani, non vedono, non riconoscono gli estremi di cui ha parlato il Papa in Bolivia. E dunque sarà molto interessante capire se il suo messaggio sarà altrettanto duro o se si concentrerà, come molti anticipano e si aspettano, più per esempio sulle questioni della fratellanza, sulle questioni dell'apertura, sulla questione di riconoscere i diritti di tutti, e dunque probabilmente un riferimento ai gay. Anche questo vedremo se ci sarà, soprattutto dopo la importante sentenza della Corte Suprema americana che ha confermato il diritto dei gay a sposare. Ci sarà un riferimento sicuramente all'ambiente. Dunque, grande attesa. Con questa puntata comincio a parlarvi del viaggio del Papa. Bene, vorrei chiudere però questa puntata dedicata al viaggio del Papa con un paio di cose. La prima, Francesco, prima di arrivare negli Stati Uniti, passerà da Cuba. Ricorderete che il Papa, ha avuto un ruolo molto importante, molto apprezzato nel riavvicinamento dei due paesi. Dunque, anche questo sarà un viaggio, ma devo dire, ci aspettiamo un viaggio di grande contenuto emotivo. Poi, sul piano più pragmatico, il Vaticano ha giocato d'anticipo. Sentiamo. We had 6 suspicious transaction reports. In comparison to 2011, we had 1 suspicious transaction report. So this is a clear sign here. Ecco, questa è la voce di René Brulhart, che è un avvocato svizzero, il numero uno dell'antiriciclaggio del Vaticano. Qualche settimana fa è stato a Washington, si è incontrato con le autorità americane. Il viaggio aveva una ragione molto specifica: giocare d'anticipo su possibili critiche di cui potrà essere oggetto il Vaticano durante la visita del Papa. Questo perché? Beh, perché sappiamo che le finanze vaticane sono state oggetto di critiche e di qualche scandalo, e dunque è partito un processo per la trasparenza delle finanze vaticane. Brouard ha rassicurato le autorità e il pubblico: le nuove misure di trasparenza hanno già portato risultati molto concreti. Dal maggio 2013 alla fine del 2014, l'Istituto per le Opere di Religione, IOR, che è poi la Banca Vaticana, ha chiuso oltre 4.600 conti correnti, ha segnalato 147 attività sospette contro appena 6 nel 2012. Il Vaticano ha firmato accordi con l'Italia e Stati Uniti per la condivisione di informazioni finanziarie, ha firmato accordi anche con la Germania, la Francia, la Gran Bretagna. Dunque un cambiamento epocale. Ecco, trovo che questa missione di Brouard sia stata molto molto importante, una iniziativa molto azzeccata dal Vaticano. Anche di questo credo dovrà parlare Papa Bergoglio, perché poi, diciamolo, sarebbe strano per un Papa anticapitalista, come ha detto di essere in Bolivia, non condannare il peggio del capitalismo, cioè l'evasione fiscale, le truffe fiscali, la mancata trasparenza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi propongo, per restare in tema, una canzone del 2013 che mi piacque molto, di Hozier, Take Me to Church. Portami in chiesa. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can show. Let me go.